spiegate. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Che suonavate fino a ieri? Marce nuziali? No, marce funebri. Mi dispiace tornare fra i vivi? Coraggio, un po' di ritmo. Con piacere.